17. Veramente non vi ho scritto da un mese intero? Beh, che cosa dovrei scrivervi del resto? Non è cambiato nulla. Il denaro ancora non è arrivato, io lo sto ancora aspettando. Ti dirò comunque, per tua consolazione, che da tempo ho praticamente interrotto tutti i miei rapporti epistolari. Nessuno è più riuscito ad usare con me il tono giusto, o comunque un tono che non mi fosse intollerabile. Alcuni hanno voluto beffarmi per questa eredità che non arriva mai e ritengono evidentemente che l'intera faccenda non sia altro che una burla. Altri si sono congratulati con me per la fortuna immeritata che mi è piovuta dal cielo senza che io abbia dovuto muovere un dito. Che non si azzardino a dirlo un'altra volta. È chiaro che nessuno capisce che cosa vuol dire questa attesa, quale immane fatica essa comporti e nessuno ha la più pallida idea delle sofferenze che si accompagnano al complesso del denaro. Da un paio di settimane circa è iniziata una graduale schiarita. Tale almeno è l'apparenza, sai, preferisco ancora esprimermi con cautela. Il coerede è arrivato qui, sano e salvo. Sottolineo il sano e salvo perché avrebbero potuto capitargli chissà quante disgrazie durante il suo lungo viaggio. Tra le varie idee ossessive che mi torturano, una simile ipotesi mi era parsa probabilissima. Egli mi ha spiegato in ogni dettaglio tutte le cose che devono ancora succedere prima che il denaro sia trasferito alla banca locale. La prima moglie si è accontentata di una somma modesta e ha ritirato la domanda di confisca dell'eredità. Tra le altre cose, lui all'inizio era piuttosto irritato con me. Da alcune lettere che il vecchio ha lasciato risulta a quanto pare che il mio consorte avrebbe potuto diventare l'erede universale del patrimonio paterno anche senza sposarsi e che comunque se non avesse stipulato quel fatale contratto non avrebbe ereditato soltanto la legittima. A posteriori egli si sente di nuovo solidale con il defunto padre e adesso gli piacerebbe molto complottare con lui contro di me, così come in passato ha complottato con me contro di lui. Ah, Bauman, almeno ritiene di poter spiegare in quest'ottica i sentimenti che gli nutre per me, ma adesso, naturalmente, è troppo tardi. E quindi tra noi due si sta sviluppando un rapporto estremamente pacato. A suo modo. E lo trovo perfino un uomo simpatico, sembra quasi un secondo Balailov, più russo però. Eppure di russo non ha proprio niente, a parte le tenute della sua famiglia che si trovano in Finlandia. Balailov era un uomo bizzarro a cui piaceva ubriacarsi, ma tutto questo non dava gioia né a lui né agli altri. Anche questo beve moltissimo, ma le sue sbornie sono più produttive poiché ne sa trarre maggiore felicità. Vive nell'albergo giù in Piazza del Mercato, gode di un credito illimitato dal momento che tutti, anche i profani, sanno benissimo che la legittima è in arrivo, ha preso in affitto un'automobile con la quale sfreccia avanti e indietro tutto il giorno e la sera fa venire un complesso musicale italiano che ha l'incarico di suonare per lui dopo la mezzanotte. I fucili che si comprano gli servono a niente perché non è un cacciatore, ma in compenso lo divertono, come pure le sue bestie, tre cani San Bernardo e un cane lupo. Per mettere insieme questa muta, ha girato vari giorni in macchina. I San Bernardo stanno seduti o sdraiati in pose decorative davanti all'albergo e poiché da queste parti non si erano mai visti animali del genere, all'inizio si formavano intorno ad essi dei folti capannelli di gente del popolo. Il cane lupo si segnala invece per il suo temperamento esuberante e infatti distrugge ogni notte una nuova stanza dell'albergo, dilaniando i letti, strappando i fili elettrici e così via. Ma il mio ruvido consorte si diverte moltissimo e ogni volta che per questo gli presentano il conto ride a crepapelle, invitando i presenti ad ammirare le prodezze di quello scavezzacollo del suo cane. Per non mortificarlo, io sono disposta ad assentire con calore a patto che non lo porti su in clinica. Anche il proprietario dell'albergo va in visibilio, sia per la bestia sia per il padrone, avendo trovato un ottimo espediente per farsi rimettere a nuovo un grande albergo di stanze. In città, naturalmente, tutti sanno che noi due siamo sposati e che si stanno addensando sul nostro capo grandi eventi finanziari. Poiché da queste parti non succedono molto spesso cose sensazionali. Per la gente di qui siamo entrati nel mito e godiamo di un'immensa popolarità. Non che mi faccia vedere continuamente, ma capita ogni tanto che mi mostri al popolo stupito al fianco del mio consorte. All'inizio non l'ho fatto conoscere agli altri, non andrebbe d'accordo con loro e poi non è affatto socievole. È anzi un tipo stranissimo e di poche parole. Normalmente quel che dicono gli altri neanche lo sta a sentire e ai loro discorsi reagisce di rado. Così, se per caso voglio sapere qualcosa da lui, capita talora che gli mi convochi per un colloquio importante. Mi tocca starmene tranquillamente seduta in attesa che cominci. Lui si fa portare del vino e i musicisti all'angolo della strada aspettano un suo cenno per avvicinarsi. Poi suonano in piedi in mezzo alla piazza e lui gli getta del denaro e ordina che gli si porti da bere. Io elargisco graziosamente un sorriso, ora qua, ora là, e aspetto che lui si decida a parlarmi. Finalmente si ricorda e allora con la mano cerca per un po' sotto la giacca di pelle. Sai, ha uno strano complesso che riguarda l'abbigliamento. Non l'ho mai visto se non con gli stivali di pelliccia, i pantaloni al ginocchio e la giacca di pelle. E infine ne estrae un foglietto o un documento tutto spiegazzato del quale mi comunica il contenuto essenziale. Eh sì, ma il contenuto essenziale è sempre soltanto un ulteriore rinvio o intoppo. Io gli esprimo la mia preoccupazione perché ancora ci tocca aspettare, ancora. Ma lui non mi sta quasi a sentire, replica con voce furiosa. Anch'io queste scartoffie non le capisco. Di questioni di denaro non ho mai capito niente, ma lei stia tranquilla, gentile signora, vedrà che tutto si risolverà per il meglio. E poi ricomincia a magnificare le prodezze dei suoi cani e mi chiede informazioni sulla gente, se questi o quelli sanno giocare bene. Mi mostra una nuova rivoltella che a suo avviso è migliore di quella che aveva prima. Beve un bicchiere dopo l'altro e dà l'impressione di sentirsi allegrissimo. Mi succede assai raramente di riuscire a renderlo un poco più loquace, ma io stessa in questo periodo ho una costellazione analoga, in quanto i miei pensieri ruotano continuamente come in un gorgo monotono che mi stordisce intorno a un solo e unico interrogativo: quando arriverà il denaro? La compagnia di quest'uomo è dunque per me una vera benedizione, ma come ho detto, capita ogni tanto che si sciolga un po' di più e allora riferisce qualche frammento della sua vita o qualche frammentaria opinione su uomini e cose. Le sue opinioni sugli esseri umani sono molto sommarie. Degli uomini gli piace soltanto il tipo dello scavezzacollo, quello che beve moltissimo o rischia tutto nel gioco o in qualche altra prodezza. Gli altri non lo interessano. Quando ne trova uno lo ammira, lo protegge, gli ficca in tasca tutti i soldi che ha, eccetera, eccetera. Anche lui da ragazzo è scappato da scuola per diventare marinaio e in seguito per anni e anni ha fatto il cercatore d'oro. Non appena arriva la legittima, vuole andare negli Urali per cercarne dell'altro. L'importante è che arrivino i soldi, se no non c'è niente da fare. Forse, malgrado tutto, dovrei metterlo in contatto con Harry. E figurarsi in quell'ambiente tra marinai e cercatori d'oro quanti scavezzacollo avrebbe potuto conoscere. Non mi è del tutto chiaro se egli stesso si consideri un vero e proprio scavezzacollo. Comunque, è questa la sua segreta ambizione. Forse è solo troppo modesto per fregiarsi di un simile titolo. Per le donne, beh, ha un disprezzo piuttosto profondo, certamente dovuto almeno in parte al suo primo matrimonio. Infatti, quando una volta mi è capitato di menzionare fuggevolmente quella donna, è seguito da parte sua un lungo silenzio. Per tre quarti d'ora o anche di più ha continuato a bere senza dire una parola. Poi, tutto a un tratto, è sbottato con irosa convinzione: le donne sono tutte canaglie. Io che da un pezzo avevo dimenticato di che cosa stavamo parlando, devo averlo guardato in faccia con un certo sbigottimento, perché egli ha soggiunto in tono più mite: «No, gentile signora, non sto parlando di lei». Per quel giorno la nostra conversazione si è conclusa così. Penso che in tutta la mia vita non ho quasi mai ricevuto un così bel complimento e in effetti sono in grado di apprezzare fino in fondo i piaceri di questa luna di miele, che in verità non manca di un certo fascino. Ne gioiscono anche gli amici della casa di cura che ogni tanto vengono in città per godersi lo spettacolo da lontano. Soltanto il professore continua a non credere che io sia la moglie di quest'uomo che fa tanto parlare di sé e dispone, a quel che sembra, di mezzi così cospicui. Altrimenti, come mio medico, sarebbe venuto da un pezzo a fargli una visita e costui, dato che paga un'automobile e mantiene una muta, potrebbe anche degnarsi di pagare il mio conto. Questa e altre odiose osservazioni mi sono state riferite da una paziente e mi riportano al solito pensiero: Signore, quanto dovrò ancora aspettare? Mi è anche passata La voglia di spedire la posta. È probabile che la mia sia una forma di nevrosi. Harry ha qualcosa di analogo. Non riesce a decidersi ad aprire le lettere. L'idea ossessiva è che ci sia scritto qualcosa di sgradevole. Al momento è in piena crisi economica, sta aspettando una notizia importante che cambierà di colpo la sua situazione, ma ha deciso che fin quando non arriva non vuole toccare un solo foglio scritto. Sulla sua scrivania c'è un apposito scomparto per la corrispondenza che non viene aperta. Sono lettere da ogni parte del mondo e anche espressi e raccomandate. Qualche volta lui se ne scorda e si lamenta con foga di non aver più saputo nulla di un certo affare. Ma se c'è una raccomandata da 3 settimane, aprila una buona volta. Oh no, non posso proprio. Di tanto in tanto, seduti davanti alle sue lettere, noi le scrutiamo e cerchiamo di figurarci che cosa ci sia scritto. Sarà meglio aprirle, sarà meglio lasciarle dove sono? E ancora per quanto tempo? Tocca a noi decidere il momento di aprirle o è meglio aspettare che la cosa si risolva da sé? Beh, io penso che in fondo noi siamo convinti che a forza di giacere lì quelle lettere diventino migliori, che certe notizie suonerebbero negative se la lettera fosse aperta subito, mentre col passare del tempo possono anche tramutarsi in qualcosa di positivo. Ma nessuno di noi, come ovvio, ammette di fronte agli altri di pensarla così. Sono arrivate 3 lettere di Gottfried, che sono veramente per me e per Harry un peso sul cuore. Abbiamo intenzione di aprirle non appena esso, il denaro, sarà arrivato. Prima non potremmo comunque aiutarlo e sapere che sta male sarebbe davvero un inutile strazio. In passato era Lucas che scuoteva il capo e alzava gli occhi al cielo, adesso lo fa anche Bauman. Ha finito a poco per annoverarci fra quei casi gravissimi di fronte ai quali anche la scienza, sto usando le sue parole, è costretta almeno per il momento a dichiararsi impotente. Ciò significa che, dato lo stadio a cui siamo ormai giunti, egli ha rinunciato a seguitare il trattamento e di questa decisione noi siamo felicissimi. In base a un tacito accordo, nessuno deve più parlare di complessi, né di analisi e men che mai di denaro. Da allora, quando siamo intorno al tavolo, regna tra noi un imbarazzante silenzio di tomba e non esiste più un argomento di conversazione comune. La spedisco o la trattengo questa lettera? È meglio che aspetti finché. Oh no, questo atroce finché non riesco più a pronunciarlo e neanche a scriverlo. E se decido di aspettare, può darsi che la mia attesa duri ancora più a lungo. 18. È arrivato, Maria. Non è ancora tutto, ma quasi. La faccenda è iniziata mercoledì scorso. Il mio coerede era scomparso all'improvviso dalla faccia della terra, oppure si faceva negare. Apprendemmo solamente che aveva viaggiato in macchina tutto il giorno in compagnia dei cani, che si era fermato in varie località della zona per radunare intorno a sé un certo numero di scavezzacollo a cui aveva offerto abbondantemente da bere e che la sera al suo ritorno non era più in grado di essere interrogato. A questo punto ritenemmo a buon diritto di poter concludere che la legittima o stava per arrivare o era in corsa in un caso funesto. Il mio coerede è solito infatti estrinsecare nella stessa maniera l'eccitazione più gioiosa e il più cupo dispetto e prima di poter ristabilire un buon rapporto con lui è necessario lasciarlo sfogare. Poi, un bel mattino, è comparso in carne e ossa quassù, cosa che non era ancora mai capitata. Teneva il cane lupo al guinzaglio, ma quello, staccatosi con violenza, ha investito diversi pazienti e quasi li ha mandati a gambe all'aria, creando un gran panico. Il professore è uscito dal suo studio per vedere che cosa stesse succedendo. Il mio consorte era fuori di sé dall'entusiasmo per il temperamento del suo cane e, minacciandolo per scherzo con la pistola, ha domandato più volte se non era un vero scavezzacollo. Ma il professore ritenne evidentemente che questo titolo onorifico fosse rivolto a lui e prese il mio coerede per un pazzo furioso portato lì da me perché lui lo curasse. Ah, simili malintesi sono molto frequenti col professore e in mezzo a quell'inferno non è stato facile fargli capire il legame esistente tra me e quell'uomo e il suo cane. L'ira del professore era tale che gli si sono gonfiate le vene sulla fronte. Credo proprio che gli stesse per venire un attacco di pazzia furiosa, il che per la sua clinica non sarebbe stata certamente una buona pubblicità. Una volta risolto questo incidente, è venuto il momento di parlare d'affari. Il mio ruvido consorte ha esplorato tutte le tasche interne della sua giacca di pelle e ne ha estratto infine un documento solenne, la ricevuta di deposito della banca finlandese che ci ha messo a disposizione la legittima. Per il momento essa non è in contanti, bensì sotto forma di obbligazioni delle Ferrovie dello Stato. Prima ci siamo consultati un po', poi siamo andati giù in città fino alla banca dove abbiamo trasmesso l'incarico, mediante un telegramma, di vendere i nostri titoli. Quindi abbiamo fatto una lunga passeggiata in macchina con la muta al completo. Non avevo visto gli altri per tutta la giornata e solo all'ora di cena mi è stato possibile riferire l'accaduto. Quando ho cominciato a parlare della nostra operazione bancaria, Lucas ha posato sulla tavola forchetta e coltello e, dimentico di ogni forma di cortesia, mi ha investito così: "Senta, ha per caso perduto il ben dell'intelletto? Ha davvero venduto i titoli per telegramma e en bloc?" Non potevamo più aspettare, ho replicato io con un filo di voce. "Ma bisogna assolutamente che l'operazione sia revocata. Di quali titoli si tratta?" Io li ho nominati, ero tutta orgogliosa di saperlo e di non dover fare la mia solita figuraccia. I lamenti di Lucas avrebbero fatto compassione anche ai sassi, e infatti la pietà ci ha travolti tutti. Quelle obbligazioni, ha detto, avremmo dovuto farle spedire qui, depositarle in banca e venderle a poco, e poi chissà cos'altro avremmo ancora dovuto fare. Io non ne capisco niente. A chi di noi due era venuta questa splendida idea? A tutti e due volevamo accelerare le cose al massimo. Oh, invece di chiedere prima consigli a una persona competente. No, adesso mi fa torto. Mi sono comportata da persona più che assennata, tant'è che ho domandato al direttore della banca se non fosse più opportuno vendere per il momento soltanto alcuni di quei titoli. Lui mi ha consigliato invece di fare l'operazione subito e en bloc. Alzata di spalle, pausa di silenzio. Non è quel tipo alto e biondo che spesso abbiamo visto al caffè? Quello con un'aria così infelice? Ha domandato Harry. Oh sì, è veramente un melanconico. Quando gli ho detto che avevo fretta perché desideravo intraprendere un viaggio, lui mi ha risposto commosso: "Dio, come sarebbe bello poter viaggiare, andare lontano, lontano da qui." "Venga con me," gli ho detto io per rallegrarlo un po', ma lui si è limitato a scuotere il capo con tristezza. "Ma sì, lo prenda pure con sé," ha detto Lucas con voce flebile. "Un melanconico direttore di banca, è proprio la compagnia che ci vuole per lei." 19. Prima della partenza non sono più riuscita a darti mie notizie e anche adesso posso scriverti solo poche righe. Cerca di capirmi. Non so bene cosa mi stia succedendo. Quella stupida clinica è ormai sepolta nell'oblio. Mi sembra tutto così irreale. Sono mai stata in una casa di cura? Ho mai vissuto in uno stato di perenne attesa di denaro? Oh, davvero, ho sofferto di un complesso del denaro di cui mi volevano liberare mediante la psicoanalisi. E davvero adesso mi è passato del tutto? Questo, Maria, è un grave interrogativo al quale per il momento non mi azzardo a rispondere. Mi sembra quasi che il mio complesso si sia solo modificato, poiché da quando esso è arrivato, tutte le mie sensazioni sono tornate a ruotare esclusivamente intorno a lui, intorno al denaro. Si tratta questa volta di sensazioni positive, ma è pur sempre un vortice di concrete e accessibili banconote, monete d'oro, assegni, lettere di credito, occasioni, acquisti, eccetera, eccetera. Sento che il mio rapporto con lui è ancora troppo intimo, che tuttora mi riempie troppo, non riesco a non pensarci di continuo, è più forte di me. Per la prima volta in vita mia ho passato una notte senza poter dormire perché il denaro era finalmente arrivato. Baumann sostiene. Ma no, devo prima raccontarti varie altre cose. Il giorno successivo a quello in cui ci era giunta la ricevuta del deposito delle obbligazioni e avevamo trasmesso alla banca l'incarico di venderle, ci siamo decisi ad aprire la posta di Harry. È risultato, tra le altre cose, primo che il signor Al-Ramseder è stato messo per sempre in condizioni di non nuocere poiché i suoi stessi cafri lo hanno linciato. Secondo, che il povero Gottfried, solo e disperato, vigila scrupolosamente sull'area petrolifera, non ha saputo nulla di Balailov e spera in un nostro intervento. E infine, che Harry dovrà andare in Spagna per un viaggio d'affari, che potremmo benissimo far coincidere con un nostro viaggio di piacere. Quindi abbiamo subito mandato a Gottfried un telegramma per disimpegnarlo e portarlo con noi perché ha un gran bisogno di riposo. Mentre Baumann ha voluto aggregarsi perché, come dice lui, ha un vivissimo interesse per l'ulteriore evoluzione dei nostri complessi. Il mio coerede è rimasto lassù. Lui e il proprietario dell'albergo sono diventati inseparabili. Tra l'altro, quando siamo partiti, il denaro non era ancora materialmente arrivato, ma la banca ci ha concesso un prestito, avendo già prenotato i biglietti della nave e non volevamo aspettare più a lungo. Da sciocchi, però, la nave l'abbiamo persa lo stesso perché, contrariamente a una lunga tradizione, è partita in orario. Inoltre, sulla linea ferroviaria Genova-Marsiglia era in atto uno sciopero, sicché anche il treno non si poteva prenderlo. È chiaro che prosegue l'ammutinamento della mia legittima. Ah, quante volte abbiamo dovuto rinunciare a un viaggio perché non potevamo permettercelo. E adesso che potevamo prendere un treno speciale proprio su quella linea, era in atto uno sciopero. Nessuno al mondo riuscirà mai a convincermi che siano stati davvero i ferrovieri a incrociare le braccia. Gli altri hanno proposto di trovare a Genova una comoda sistemazione e di aspettare lì, ma io non sono più in grado di aspettare nulla e di fronte agli ostacoli preferisco giocare d'astuzia. Perciò, siccome al momento non c'erano altre navi che prendevano la rotta da noi desiderata, abbiamo deciso di sistemarci in un piccolo piroscafo spagnolo da carico, nella speranza che esso almeno prima o poi prenda il largo. Non è escluso che nel corso del viaggio ci capiti di cambiare imbarcazione o magari di proseguire in treno. Sul piroscafo dovranno essere imbarcate una ventina di mucche e questo presenterà alcune difficoltà logistiche e burocratiche, di cui non siamo stati ancora perfettamente edotti. Al momento sappiamo con certezza una cosa sola: la partenza avrà luogo o la sera tardi o la mattina prestissimo, e quindi lo steward ci ha consigliato vivamente di sistemarci fin d'ora sul piroscafo. Dopo la lunga attesa delle mucche non si potranno aspettare anche i passeggeri e dunque al momento della partenza devono essere già a bordo. Le cabine sono tutt'altro che confortevoli, come ogni altra cosa su questa imbarcazione, e almeno di notte siamo costretti a rimuovere le nostre aspirazioni al lusso. Durante il giorno, come ovvio, scendiamo a terra e ci rifacciamo in grandi compere e gozzoviglie. Bauman è insopportabile, vuole stare tutto il tempo con noi, analizza ogni cosa che facciamo e il modo in cui la facciamo. A me piacerebbe mandarlo a quel paese, ma non si può. In fondo è solo merito suo se ho potuto rimanere così a lungo in quella casa di cura. Ecco. Oh, sono arrivate le mucche, le stanno caricando proprio adesso e stasera si parte. Durante il viaggio ti scriverò ancora. 20. Gli altri inveiscono come pazzi perché li ho indotti a seguirmi in questo viaggio. È cominciata subito una tremenda burrasca e tutti stanno male da morire, perennemente sdraiati nelle loro cabine. Lo steward non è avvezzo ai passeggeri e anziché occuparsi di loro continua, serafico, a spennare dei polli. Io personalmente non ho mai sofferto di mal di mare. La nausea mi viene al massimo quando... ma per fortuna quei tempi sono passati. Sul ponte di coperta, ammesso che così si possa chiamarlo, incalzano i cavalloni. Vicino alla scaletta di Boccaporto c'è uno stanzino ben protetto dove io sto seduta su una sedia a sdraio fissata a terra con delle corde. Sono sempre sola e questa solitudine l'assaporo in pieno. È come se il mondo intero fosse sprofondato e nient'altro fosse rimasto se non cielo, mare e denaro.